Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia e benvenuti a Focus Economia. Oggi eccezionalmente con me, torna domani Sebastiano Barisoni. I temi che affronteremo nella puntata di oggi. Allora, parleremo sicuramente della legge di stabilità, lo faremo da due versanti. Innanzitutto dal lato, anzi da tre versanti. Innanzitutto dal lato delle novità che sono arrivate nella notte, su quello che si prospetta, perché come sempre succede per le leggi di stabilità e le leggi finanziarie, una volta accade che si fa un gran lavoro all'interno delle Camere, all'interno delle commissioni, dopodiché arriva il governo, raccoglie parte di questo lavoro fatto, parte ci mette del suo, fa un maxi emendamento che di fatto sostituisce la manovra, una maxi modifica che di fatto sostituisce la manovra e ci mette la fiducia. È abbastanza probabile che finisca così anche in questo caso, e però l'evoluzione delle ultime ore danno delle indicazioni su quello che potremo trovare all'interno di questa legge. Parleremo della critica molto dura rivolta oggi dal Sole 24 Ore alla, più che alla legge di stabilità in sé stessa, alla promessa arrivata dal Presidente del Consiglio Enrico Letta, così come da altri ministri, altri esponenti di governo. Secondo questa promessa, come richiesto dal Sole 24 Ore e dalle parti sociali, dal fondo si sarebbe dovuto costituire un fondo realizzato con i proventi da una parte dell'evasione fiscale, dall'altra della cosiddetta spending review, ossia la revisione della spesa pubblica, e questo fondo insomma era destinato a tagliare le tasse sul lavoro. Che cosa succede? Succede che in realtà il Sole 24 Ore ha scoperto che le priorità che sono indicate per questo fondo sono diverse, e quindi il taglio delle tasse sul lavoro arriva per ultimo. Ne parleremo al direttore del Sole 24 Ore. Parleremo anche di un altro fatto specifico che sta facendo molto discutere in merito alle scelte di politica economica, ed è la cosiddetta web tax, che è stata proposta, come sapete, da Boccia, Francesco Boccia, del Partito Democratico, e che sta ricevendo molte critiche. Ne parleremo col direttore di Wired e sentiremo le voci raccolte questa mattina da Giovanni Minoli in Mix 24. Sparisce comunque nell'ultima formulazione l'obbligo di partita IVA per le società che partita IVA italiana per le società che effettuano commercio elettronico, mentre rimane per gli spazi pubblicitari e il diritto d'autore. Come sapete, ci sono molte critiche che si addensano su questa norma, sia dal punto di vista legale, dicono insomma non è compatibile con la normativa europea, sia dal punto di vista produttivo, cioè il rischio è che possa avere un impatto non particolarmente positivo sulle aziende italiane. Dall'altra parte c'è l'altra questione, naturalmente: perché è stata pensata questa web tax? Perché ci sono questi grandi colossi internet come Google, per esempio, come Amazon, che insomma fanno parecchi profitti in Italia, e però le tasse, quelle pochine che pagano, le pagano in altri paesi, anzi proprio pochine insomma. Di questo parleremo, e parleremo anche di mercati che oggi sono positivi. Il FTSE MIB guadagna un punto percentuale, il FTSE share lo 0,86%, positivo anche il resto d'Europa. Francoforte un punto percentuale di guadagno, Parigi lo 0,82%, mentre l'euro quota 1,37,58 contro dollaro. Come sempre, il numero per intervenire in diretta via SMS è il 349-238-6666. Se volete, mi potete anche scrivere su Twitter, mi trovate là, Simone Spezia, usare l'hashtag Focus Economia, perché non ho accesso alla pagina Facebook. Sentiamo come sempre a questo punto le notizie in breve di oggi. Iniziamo Partiamo come sempre dalle materie prime. L'oro in lieve rialzo, più 0,2% a $1,233 l'oncia. Per quanto riguarda il petrolio, il WTI, quello quotato a New York, a $97,6 al barile, in rialzo dello 0,43%. Per quanto riguarda il Brent, c'è una crescita dell'1% a $109,92 al barile, a ridosso dei 110. Da segnalare oggi il brusco calo per Bitcoin sulla scia delle decisioni della banca centrale cinese, che ha vietato alle società che si occupano di pagamenti online, come per esempio PayPal, di utilizzare la moneta virtuale. La valuta digitale ha perso il 50% rispetto ai valori record di fine novembre. Veniamo a dati che arrivano dalla Gran Bretagna. La disoccupazione è scesa al 7,4% fra agosto ed ottobre, il livello più basso dal 2009. E poi, restando in Europa, anche questo approfondiremo più avanti. Inizia la maratona di incontri che dovrebbe portare ad una definizione di massima delle modalità con le quali si realizza l'unione bancaria europea, in particolare l'annesso meccanismo di salvataggio degli istituti in crisi. Oggi è previsto a Parigi un incontro tra Hollande e Merkel. Da questa sera la questione sarà l'esame dell'Ecofin e poi ci sarà il Consiglio europeo. Saccomanni dice: sono convinto che non dobbiamo affrettarci per un'unione bancaria difettosa, ma dobbiamo prenderci il tempo necessario per costruirne una che funzioni correttamente. Letta si dice però determinato a raggiungere questo obiettivo proprio nel Consiglio europeo che inizia domani a Bruxelles. Letta, tra l'altro, ha parlato alla conferenza degli ambasciatori e ha parlato anche di economia, anzi a dire il vero soprattutto di economia e di crescita economica italiana. Sentiamolo. L'obiettivo di avere l'anno prossimo 1% di crescita e il 2015 2% di crescita è un obiettivo alla nostra portata. I dati di questo trimestre dimostrano che è un obiettivo alla nostra portata se i tassi di interesse rimangono bassi e quindi la fiducia nel nostro Paese rimane una fiducia forte e se i nostri conti pubblici rimangono in ordine. Ed è tornato sui conti pubblici, dice bisogna fare più crescita, ma farlo sfasciando i conti non è la nostra intenzione. Si è arrestata la caduta del PIL, adesso ricomincia la crescita e l'anno prossimo sarà il primo anno di piena crescita dopo molto tempo. Ma lo abbiamo fatto senza rovinare i conti pubblici e a tutti coloro che anche in queste ore chiedono in Italia di fare di più per la crescita, noi diciamo che fare di più per la crescita sfasciando i conti pubblici hanno cercato di farlo nostri predecessori in passato e hanno ridotto l'Italia nelle condizioni in cui ci siamo trovati qualche tempo fa. Restando sull'Italia c'è la Corte dei Conti che promuove la gestione e l'andamento di Equitalia, ma sottolinea che in molti interventi legislativi che hanno modificato l'ambito operativo del sistema della riscossione con lo scopo di rendere meno rigide e più vicine alle esigenze dei contribuenti le procedure di riscossione. Dice che questi interventi stanno limitando in modo significativo l'azione di Equitalia e rischiano di indebolire l'attività di recupero dell'evasione. Beh, insomma, che si limiti in qualche modo l'azione di Equitalia, forse insomma non tutti pensano che sia un male. Nel frattempo l'amministratore delegato di Equitalia, Benedetto Mineo, dopo l'intervento della Corte dei Conti, dice che nel 2013 si sta verificando un calo di quasi il 7% nella riscossione rispetto all'anno precedente, con un valore previsionale a fine anno di circa 7 miliardi. Infine ci sono dei dati che faranno piacere discutere da una parte, perché sono i dati sulle auto blu. Sono 4.557 le auto blu a disposizione al 1 dicembre 2013 delle amministrazioni regionali e locali. Insomma, c'è stato un calo di 600 auto blu, però come al solito attestiamo il primato siciliano. Più di un quarto di tutte le auto blu si trovano tra Sicilia e Campania, solo in Sicilia 758. Ma a chi saranno assegnate? Dove andranno con queste auto blu? Complessivamente il taglio, si dice, è stato di 601 auto rispetto al 31 dicembre 2012. Sono i dati più significativi del rapporto Formez Pubblica Amministrazione Funzione Pubblica sul parco auto degli enti locali, che sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica. E a quel punto rideremo, perché vedremo quante regioni hanno veramente tagliato il parco di auto blu. E veniamo al primo tema di oggi, la legge di stabilità. Poi parleremo, sicuramente ne parleremo più avanti, insomma intorno alle 18:15, ma magari accenneremo già qualcosa adesso, di questa benedetta web tax, perché già mi scrivete, dite, e le multinazionali con magazzino all'estero dove pagano le tasse per le fatturazioni in Italia? E le nostre imprese che fanno profitti all'estero dove pagano le tasse? E poi riferisce un ascoltatore, chiedo verifica perché non lo so, e comunque non è un sito a fine di lucro, dice che Boccia ha il suo sito viene fatto in Canada, ma questo sinceramente non ho conferme, quindi lo leggo come SMS, se avete modo di verificare, anzi lo verificheremo noi. Salvatore Padura del Sole 24 Ore, ciao, benvenuto. Buonasera, ciao. Eccoci qua. Allora, poi vice direttore del Sole 24 Ore, tra poco avremo anche ospite più avanti nella trasmissione il tuo direttore, che poi è anche il nostro, il direttore di Radio 24, per il duro editoriale nei confronti del Presidente del Consiglio, Enrico Letta, per questa promessa tradita di appunto dare... di assegnare i fondi per i fondi provenienti dall'evasione fiscale e dalla spending review al taglio del cuneo fiscale, promessa tradita, perché appunto in realtà ci sono molte priorità per questo fondo che vengono prima del cuneo fiscale. Anche di questo parleremo. Allora, io però vorrei fare un punto generale. Innanzitutto partendo dal fatto che nemmeno quello che vedremo stasera probabilmente sarà la versione definitiva, perché arriverà il classico maxiemendamento del governo, no? Sì, almeno così sembra, è una decisione che il governo non ha ancora ufficialmente preso, però sembra che questa sia, insomma, l'ipotesi più probabile. Tuttavia sembra di capire che il governo non farà ulteriori modifiche oltre a quelle approvate, diciamo, in questi giorni in commissione alla Camera, quindi diciamo che il testo finale dovrebbe essere quello che si è stabilizzato nel dibattito, nel confronto in commissione, che come sappiamo è durato fino alla scorsa notte, a ora inoltrata, quando hanno cambiato ancora alcune cose eccetera. Non dovrebbero esserci ulteriori modifiche da parte del governo, quindi si voterebbero gli emendamenti della commissione, le modifiche della commissione. Allora, lasciando per un attimo da parte il fondo taglia cuneo sul quale torneremo, e la famosa web tax sulla quale torneremo, quali sono gli interventi secondo te che lasciano più dubbi e maggiori perplessità? Ma dobbiamo capire bene come uscirà la riforma della tassazione immobiliare, no? Si è parlato nei giorni scorsi dell'ipotesi di introdurre un'aliquota, un tetto massimo all'aliquota della TASI sulla prima casa. In quell'ipotesi, diciamo, il livello massimo non avrebbe potuto superare l'1 per 1000. Sembra di capire che, diciamo, ieri e stanotte questa norma sia stata modificata, per cui di fatto si ritorna ad attribuire ai sindaci la possibilità di elevare la tassa sulla prima casa dall'1 per 1000 fino a un massimo del 2,5 per 1000 nel 2014, addirittura a livelli più elevati negli anni successivi. Questo, diciamo, diventa un elemento abbastanza critico, perché abbiamo anche, insomma, dimostrato con alcuni calcoli, alcune simulazioni, che in questo caso la differenza rispetto all'IMU sulla prima casa non sarebbe effettivamente enorme, anzi in molti casi forse si rischierebbe di pagare di più, visto che diciamo, per legge non saranno previste quelle detrazioni che invece per l'IMU prima casa erano previste. Bisogna capire come, diciamo, si concluderà la vicenda pensioni, rivalutazioni, pensioni d'oro, eccetera. Anche lì bisogna avere un po' di pazienza e vedere i testi finali, anche se lì, insomma, mi sembra che in commissione qualche passo avanti sia stato fatto, o diciamo altre cose. E poi c'è questa sanatoria per i gestori di stabilimenti balneari, no? Mi sembra che si vada verso è il 30% delle somme dovute allo Stato se si paga in un'unica soluzione, oppure il 60% in 9 rate annuali, no? Sì, una sanatoria sui vecchi canoni demaniali non pagati da chi li aveva in gestione. Questa è una questione che è rimasta sempre là sospesa, no? La questione degli stabilimenti balneari, se ne continua. Sì, in realtà però sappiamo che durante l'iter della manovra si era addirittura ipotizzato una sorta, era stata forse impropriamente chiamata, una privatizzazione delle spiagge, cioè con la possibilità, insomma, di un intervento più deciso, diciamo così, per attribuire ai privati, ai gestori, le spiagge. Questa eventualità è stata, diciamo, evitata, non ci sarà nulla del genere, però, insomma, per regolarizzare tutta una serie di questioni e situazioni che erano rimaste aperte con i gestori delle concessioni è stata introdotta questa sanatoria di cui hai parlato, il 30% in un'unica soluzione o il 60% dei canoni non pagati in 9 anni. Senti, tu citavi come elemento critico all'inizio, come primo elemento critico, ancora le perplessità che riguardano questa benedetta TASI e la tassazione immobiliare. Praticamente abbiamo il portato dell'IMU, di questa cancellazione dell'IMU, che sta pesando su tutta la politica economica ormai da mesi. Sì, io, insomma, ripeto una cosa che dico spesso e che probabilmente non è neanche così popolare, però, insomma, io penso che questa sia stato un fardello pesante che il governo e la maggioranza, diciamo anche quella precedente con Forza Italia, del quale il governo e maggioranza hanno dovuto farsi carico, forse in modo sbagliato, perché io continuo a pensare che un livello di tassazione non esagerato, non elevato, accettabile, congruo, equo e tutti gli aggettivi che vogliamo mettere sulla prima casa non è di per sé sbagliato. Ce l'hanno diciamo tutti i grossi paesi europei, esiste anzi in Inghilterra per esempio è molto elevato, esiste in Francia, esiste in Germania, eccetera. Quindi la mia sensazione è che si siano utilizzati questi molti mesi, di fatto dalle elezioni a oggi, dalla formazione del governo a oggi, per discutere di un tema che probabilmente non era una priorità. Era una priorità per i partiti, ma non era una priorità per il paese. Oltretutto sappiamo che già nel corso del 2013 il reperimento delle risorse per abolire l'IMU sulla prima casa, parliamo di circa 4,8 forse miliardi di euro, ha comportato comunque dei sacrifici, perché, insomma, come si dice, di pasti gratis non ce ne sono più, quindi se si toglie da una parte o si è bravi a tagliare la spesa, ma purtroppo noi non lo siamo, spero non lo siamo ancora, lo dovremo diventare, oppure da qualche altro questi quattrini devono uscire, quindi un balzello di qua, gli acconti che aumentano, poi per carità lo hanno fatto le banche, magari questo no, però è anche sbagliato, perché poi le banche comunque sappiamo che stanno affrontando e poi alla fine va a ricadere su di noi, esattamente, perché poi il tema è quello, no, ma per quello dico, non ci sono più pasti gratis, quindi tu togli 4-8 miliardi da una parte, ma da qualche altra parte li devi tagliare, e purtroppo quegli interventi che tutti auspicavano sul fronte del taglio della spesa non si sono visti, non si sono ancora visti. Adesso sappiamo, abbiamo un nuovo commissario che sta lavorando a un piano molto ambizioso, però insomma al momento no. Io adesso, è anche per collegarmi in qualche modo all'editoriale di oggi del direttore Roberto Napoletano, penso che quelle risorse potevano più opportunamente essere destinate ad altro, almeno in parte, perché poi io capisco che l'IMU nel 2012, quando è stata pagata sulla prima casa, è stata per molti un'imposta molto pesante e che quindi qualche cosa bisognava fare, però toglierla a tutti di fatto, insomma tranne le case di lusso, però toglierla a tutti in modo indiscriminato probabilmente non è stata una scelta di grande lungimiranza. Allora, qua così mi sembra tu abbia risposto anche parlando del lavoro di Cottarelli, del lavoro che dovrà fare Cottarelli, all'ascoltatore che scrive: la coperta è corta. Sarà pure corta questa coperta, con 800 miliardi di spesa pubblica, cifra che riferiamo sempre, insomma la coperta non mi sembra così corta, insomma magari qualche margine di manovra si riesce a trovare, si riuscirà a trovare. Poi, come sapete, in questa stessa trasmissione ogni giorno Sebastiano Barisoni vi racconta, no, i livelli, e in parte l'abbiamo accennato solamente, insomma in parte l'abbiamo fatto anche oggi, i livelli pazzeschi di spesa pubblica che risiedono soprattutto nelle amministrazioni locali e nelle regioni, insomma. Quindi evidentemente qualcosina in più si potrebbe ricavare, la coperta non è tanto corta quanto sembra, forse la vogliono far apparire corta. Grazie Salvatore Padura, grazie Sole 24 voi, ore, vice direttore del Sole 24 ore, per essere stato con noi. Ci fermiamo, una pausa, ci ritroviamo per la borsa. Allora, qualche sms. Ci scrivete a proposito della questione del reperimento delle risorse. I 4 miliardi per il Monte dei Paschi però si sono trovati in fretta. È vero, si sono trovati in fretta. Ho l'impressione che però metterla in questo modo sia un po' semplicistico, per due ordini di motivi. Innanzitutto perché è un prestito. È un prestito del Tesoro a Monte dei Paschi e non è un regalo. E questo è il primo elemento. Il secondo elemento è che qua bisogna... Il dubbio c'è sempre, per carità, però bisogna sempre fare dei ragionamenti di sistema. Il ragionamento di sistema è: mi conviene dare 4 miliardi alla terza banca del paese oggi o mi conviene farla fallire con l'effetto a catena che può provocare? Il dibattito su questo è aperto. Si è scelta la prima strada. Insomma, si può anche discutere, però non ha nulla a che fare con la questione di taglio di tasse o meno, insomma. Ancora, accetto con piacere questa osservazione a proposito del ragionamento sull'IMU che faceva Salvatore Padule, che diceva ce l'hanno tutti una tassazione sugli immobili, e quindi tutto sommato è meglio tenere una tassazione sugli immobili e tagliare di più da altre parti. La tassazione che deve passare dalle persone alle cose, si diceva qualche tempo fa. Lo dice lo stesso centrodestra, in realtà lo dice il ministro Tremonti, seguendo indicazioni europee da questo punto di vista. Accetto però l'osservazione che mi fate. È vero che in tutta Europa hanno una grande tassazione sulla casa, ma non hanno il nostro livello di pressione fiscale su tutto il resto. Giustissimo, ragionamento giustissimo. E infatti nell'ambito del fatto che la coperta non è corta e quindi si può tagliare la spesa e si può lavorare con i soldi del taglio della spesa pubblica, in quest'ambito si può anche pensare a un ribilanciamento della tassazione. E forse il togliere la tassazione sulla casa non è esattamente la cosa più produttiva e che ha un impatto più forte sull'economia, però ripeto, anche qua il dibattito prevalentemente politico è aperto, molta evidentemente letteratura economica e soprattutto pratica economica dice che dovrebbe essere così. Comunque poi ogni paese fa storia a sé. Veniamo alla borsa. Ceo Condina, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, buonasera, come stai? Ciao, buonasera a tutti, abbastanza bene, grazie. Bene, oggi anche Milano. Sì, diciamo che dopo la seduta in profondo rosso di ieri, Milano era stata la peggiore delle piazze del vecchio continente. Oggi sostanzialmente le borse sono un po' messe il cuore in pace in attesa di quello che sarà il verdetto della Fed di questa sera dalle 8:15, che potrebbe avviare la fine di quelli che sono questi stimoli monetari all'economia, degli stimoli molto significativi che hanno fino ad oggi immesso una forte dose di liquidità in tutto il sistema finanziario mondiale. Quindi Milano che è avanzata di oltre l'1,1% e rialza attorno al punto percentuale anche per le principali piazze continentali. Quindi allora FTSE MIB 1,15, FTSE OCER più 1,05, in linea, come si diceva, con tutto il resto. Per quanto riguarda l'America, eccola qua, il Dow Jones guadagna lo 0,24%, il Nasdaq scende dello 0,24%, lo Standard & Poor's è praticamente in perfetta parità, piena attesa della Fed, direi, a questo punto. Molto in evidenza Prysmian oggi, più 5,05%. Eh sì, oggi Prysmian guadagnato bene durante tutta la seduta, poi un colpo di rene nel finale ha agganciato quota più 5% a spingerla, un approfondito studio del Credit Suisse che l'ha indicata come uno dei titoli da avere assolutamente in portafoglio nel 2014. Secondo Credit Suisse Prysmian ha una marginalità che potrà crescere ulteriormente nei prossimi anni, in più potrà avere maggiori sinergie dall'acquisizione di Draca. Ricordiamo cosa fa Prysmian: fa fondamentalmente cavi anche sottomarini oppure in fibra ottica, quindi una società che secondo la banca di investimento potrebbe avere ulteriore sviluppo, un target price, cioè un prezzo obiettivo che è stato fissato a 17,7 euro, e quindi sostanzialmente un'ondata di acquisti sul mercato. Tonico, ce lo dicevi prima, tutto il settore bancario, Popolare di Milano più 3,67%, Unicredit più 2,43%, Mediobanca più 2,34%, Banco Popolare più 2,24%, Popolare Emilia Romagna più 2,14%. Oggi è andata bene anche Pirelli. Eh sì, qui si avvicina, entro fine anno la società aveva fissato come obiettivo temporale la fine dell'anno per la cessione della divisione Steel Cord, che è quella che poi si occupa della messa a punto delle cordicelle di acciaio che ci sono all'interno degli pneumatici. È una divisione molto, molto interessante dal punto di vista della redditività. Qui, secondo indiscrezioni di stampa, la cessione sarebbe nei confronti della belga Bekaert per un valore di poco inferiore ai 250 milioni di euro, comunque un ottimo introito che consentirà al gruppo di procedere nell'iter di abbattimento del debito che è previsto dal piano industriale. Ebbene, oggi anche Enel. E anche Enel con la controllata Endesa, la controllata spagnola, che negli ultimi tempi ha dato, ahimè, tanti dispiaceri a Enel, che l'aveva rilevata negli anni scorsi. Poi, come tutti sappiamo, è arrivata la crisi del mercato energetico non solo in Italia ma anche in Spagna. Enel ha dovuto svalutare gli avviamenti di Endesa con relative ripercussioni sul conto economico. Invece Endesa, la notizia di oggi, è tornata a dare un acconto sul dividendo 2013 dopo due anni all'asciutto, e quindi anche Enel festeggia. In rialzo anche Finmeccanica. E qui invece ci sono delle indiscrezioni, dei rumors su una potenziale commessa da 900 milioni di euro in Norvegia, insomma una cifra significativa. Si tratterebbe di una fornitura di 16 elicotteri che sarebbe aggiudicata a Gusta Westland, e sicuramente una prospettiva che ha fatto bene al titolo a Piazza Affari. Si parlava di Monte dei Paschi prima per altre questioni, insomma, per gli sms che ci arrivavano dagli ascoltatori. Oggi in realtà è l'unico titolo negativo tra i bancari. Sì, assolutamente, perde praticamente il 2%, qui sul titolo continuano a pesare le forti indecisioni su quella che è la tempistica dell'aumento di capitale. Infatti, come sappiamo, i manager del consiglio di amministrazione vogliono un'operazione subito, se no sottolineano che la banca potrebbe essere nazionalizzata. Invece la fondazione, che vuole tutelare la sua partecipazione del 33%, tende a spostare in avanti questa operazione. Una cosa è certa: se il titolo continuerà a cadere così in basso, potrà raggiungere il livello in cui le banche creditrici della fondazione MPS potrebbero escutere il pegno sulle azioni. Questo per quanto riguarda Monte dei Paschi. Mediaset. E Mediaset invece aveva iniziato male, poi era arrivata a perdere quasi il 2%, poi ha recuperato e ha chiuso a meno 0,55%, sicuramente a favore del recupero in borsa di Mediaset, che veniva già da alcune sedute difficili. C'è l'annuncio di quella che sarà un nuovo progetto sulle pay TV, e cioè la fusione, uno studio di fattibilità per un'eventuale fusione tra Premium, che è la pay TV di Mediaset in Italia, e il 22% che Mediaset detiene in Digital Plus, che invece è la pay TV in Spagna. L'obiettivo è mettere queste partecipazioni in una newco e poi, come spesso avviene in questi casi, aprire la newco a un nuovo socio con magari cessione delle quote e misto aumento di capitale, comunque un'operazione che porterà della liquidità all'interno di Mediaset. E giù Fiat, meno 2,12%. E qui non ci sono particolari motivi, ha perso soprattutto nell'ultima ora di contrattazione Fiat. Sì. Di Assori in meno 2,11, Telecom Italia meno 1,02, Saipem l'abbiamo detta, meno 0,92, non l'abbiamo detta, invece non abbiamo parlato di Saipem, meno 0,92. No, e qui Saipem andava peggio prima, comunque poi ha recuperato, resta comunque un passivo dell'1% a fronte di un indice generale che ha guadagnato più dell'1%, e qui pesa soprattutto il profit warning della francese Technip, che fa le stesse commesse di Saipem, lo stesso lavoro tra virgolette di Saipem, cioè i tubi per la trasmissione del petrolio. Technip potrebbe avere dei problemi sulla marginalità nel 2014, adesso gli operatori quindi temono che anche Saipem potrebbe incorrere in un calo dei margini. L'ultima che ho da chiederti è Moncler, che dopo il botto dell'IPO, della quotazione in borsa, anche oggi bene. Sì, oggi sto contando la quotazione, ha fatto più 2,47%, era arrivata a guadagnare più del 4%, oggi è ripartito in una giornata comunque abbastanza favorevole per tutto il lusso. Di questo passo arriverà la capitalizzazione di Apple. Ma non ne sono così sicuro. Grazie Ceo Condi di Radio Corriere del Sole 24 Ore, buona giornata. Noi adesso ci fermiamo, c'è una pausa per la viabilità, ci ritroviamo tra un attimo, voglio anche rispondere a qualche sms ancora e a qualche tweet che mi è arrivato in merito alla questione della tassazione sulla casa. Ed eccoci di nuovo, 349-238-6666 per i vostri sms. A proposito della questione, la tassazione sulla casa versus un taglio delle tasse sul lavoro. Mi scrive qualcuno su Twitter, sui ragionamenti che si facevano: siamo sicuri, gli altri paesi di simili dimensioni hanno simili livelli di tassazione ed attenti al cuneo fiscale. Rispondo solo a questo perché la domanda non è chiarissima. No, non sono sicuro, nel senso che, come dicevo prima, le tesi in campo sono diverse. Noto solamente che i principali attori sociali dicono che sarebbe stato meglio tagliare le tasse sul lavoro. Insomma, se non lo sanno loro. E ancora All'ascoltatore ci scrive via SMS: spiegatemi come ci troviamo in questa situazione. Gradirei una domanda un filino più specifica, perché così è un po' ampio. Maria Longo del Sole 24 Ore, ciao, benvenuto, buonasera. Buonasera a tutti. Vogliamo parlare di unione bancaria con te, perché è stata raggiunta un'intesa di massima sui prossimi passi dai ministri dell'economia e delle finanze europei, naturalmente. Tutto questo andrà discusso nel Consiglio europeo che si apre domani, naturalmente. Innanzitutto io ti chiedo la parte educational, perché tu sei bravissimo in queste cose. Spiega ai nostri ascoltatori in quattro però di che cosa stiamo parlando? Unione bancaria significa far sì che le banche europee giochino tutti sullo stesso campo. Allo stato attuale non è così. Se c'è una crisi bancaria in Italia è per tanti motivi, uno dei quali è perché in Italia, per esempio, le regole sono molto diverse rispetto a quelle di altri paesi, e siccome la Banca d'Italia è tradizionalmente più prudente o più cattiva, diciamo come vogliamo girare la frittata, le banche italiane giocano con regole più dure rispetto a quelle degli altri paesi. Faccio solo un esempio: in Italia abbiamo il problema di crediti deteriorati. Siccome l'economia va male, tanta gente, imprese e famiglie non rimborsano i debiti bancari, le banche hanno debiti che aumentano, debiti non rimborsati. Attualmente i crediti deteriorati superano i 300 miliardi. Ebbene, come li calcoliamo noi in Italia? Fa sì che questa montagna sia molto più grande di quella che sarebbe se calcolassimo i crediti deteriorati, per esempio, come fanno in Francia. Per esempio, in Francia i crediti deteriorati non considerano deteriorati crediti coperti da ipoteca su un immobile, un mutuo. Con il mutuatario che non paga la rata da 10 anni, però che ha un immobile a garanzia, in Francia non è un credito deteriorato, in Italia lo è. Per cui è ovvio che da noi, a parità di situazione, abbiamo una montagna di crediti deteriorati maggiore rispetto a quella francese, perché li calcoliamo in maniera diversa. Ok, quindi il punto è livellare il campo da gioco. Ecco, esattamente. Questa è la sostanza. Perché livellando il campo, e questo è solo un esempio, ma ci sono mille altri esempi di trattamenti fiscali, moltissimi esempi che fanno sì che ogni sistema bancario nazionale abbia regole diverse. Questo ha un impatto forte, perché a seconda delle regole, quindi si aumentano o meno i problemi dei sistemi bancari delle varie nazioni, questo limita o facilita l'erogazione di credito all'economia. Quindi se le banche italiane faticano a erogare credito all'economia, tanti sono i motivi, quindi non è questo l'unico, ovviamente, ma un motivo è anche questo: abbiamo regole più svantaggiose, più rigide rispetto a quelle degli altri paesi. A quelle degli altri paesi. Oh, però di che cosa si è discusso in realtà nella nota di ieri? Si è discusso di fatto dei meccanismi, sì, di salvataggio delle banche. Perché tra l'altro ci sono ascoltatori che continuano a scrivere sulla vicenda del Monte dei Paschi, magari poi torniamo a rispondere, no? Perché c'è chi scrive, si faceva notare che quei 4 miliardi innanzitutto sono un prestito, prima cosa, e non un regalo al Monte dei Paschi. In secondo luogo c'è stata naturalmente una valutazione di sistema, perché naturalmente il rischio era di far fallire la terza banca del paese, e questo rappresenta un problema. Dite, capisco che il ragionamento sia semplice, se i 4 miliardi li avessero prestati ai tanti imprenditori avrebbero salvato tante vite e posti di lavoro. Probabilmente è vero nell'immediato, tenga sempre presente che un fallimento bancario, un effetto di sistema, anche di fiducia, che è molto forte, e quindi far fallire una banca è sempre pericoloso. Di questo si sta discutendo. Insomma, ricordare cosa è successo quando è fallita Lehman Brothers. Esattamente, in America. Ancora ne portiamo i lividi addosso. Allora, Moria, hanno discusso di come salvare le banche europee. Esattamente, in perché in questo contesto di uniformare le regole bancarie ci sono vari capitoli di questa appunto tentativo di uniformare le regole. Uno di questi è trovare un meccanismo unico europeo per la risoluzione delle crisi bancarie. Fino ad oggi, quando una banca è fallita o è andata vicino al fallimento, ogni stato ha fatto per sé. La Germania stessa all'inizio della crisi ha salvato moltissime banche con i soldi dei contribuenti. Tantissimi paesi in Europa sono stati spesi, mi sembra, fino a 2.000 miliardi di euro, se non ricordo male il calcolo l'aveva fatto Mediobanca, banca per salvare le banche. Ebbene, questo crea incertezza, perché se ogni paese fa per sé, non si sa, ogni volta che fallisce, che c'è una banca in crisi, il mercato non sa cosa succede. Ebbene, allora si sta cercando di fare un meccanismo unico. Il problema è trovare il tema chi paga, per poi il problema avere questo. Allora, su un punto sono tutti d'accordo, e questo è già stato segnato: le prime perdite le assorbono i privati. Cosa vuol dire? Fino a un ammontare di perdite pari all'8% del totale passività della banca fallita o in via di fallimento, vengono pagati, quindi questo primo 8% viene pagato dai privati, che sono in primo luogo gli azionisti, poi gli obbligazionisti subordinati, dopodiché gli obbligazionisti senior, e se queste tre categorie non colmano questo 8%, entrano i depositi, vengono intaccati i depositi superiori ai 100.000 euro. Ricordo che i depositi sotto i 100.000 euro sono comunque garantiti. Il problema è cosa succede dopo, ed è qui che c'è la bagarre, perché ovviamente ogni Stato preme affinché per le regole più favorevoli a se stessa. Allora, quello che accadrà è che verrà creato un fondo di risoluzione europeo. Così per questo premono molti stati, mentre per esempio altri stati come la Germania premono affinché ogni stato crei il proprio fondo di risoluzione, quindi un proprio fondo interno nazionale. Mentre invece la direzione in cui si sta andando è creare un fondo unico europeo, colmato con le risorse delle stesse banche attraverso tassazione. Adesso bisogna vedere come verrà colmato, comunque attraverso risorse bancarie. Il problema è che questo fondo di risoluzione europeo, che interverrebbe a coprire le perdite della banca fallita dopo che sono intervenuti i privati in caso di fallimento, ebbene, questo fondo sarà agibile, attivo nell'arco di 10 anni, perché piano piano verranno messi a parte i soldi. Quindi il punto è capire cosa fare nel frattempo. Il punto qua è lo snodo, abbiamo ancora 3 minuti, mi sembra di capire lo snodo di contrasto particolarmente forte tra il nostro ministro dell'economia Saccomanni e quello tedesco Schäuble è stato esattamente che cosa deve succedere in questo frattempo, perché Saccomanni dice ci vuole in questi casi un'azione rapida e immediata che rimetta in sesto il mercato, e dobbiamo fare in modo che anche questa sia un'azione coordinata, cioè ci vuole uno strumento transitorio molto rapido ed efficace. I tedeschi, come al solito, non sono un granché convinti. No, perché non vogliono pagare per i fallimenti degli altri, sostanzialmente. Vero è però, in questo Saccomanni, il ministro ha ragione, che se si lascia 10 anni, tra l'altro 10 anni non sono proprio 3 giorni, sono 10 anni, un tempo lunghissimo, si lascia a ogni Stato la facoltà di intervenire. È ovvio che se avesse un problema una banca italiana, tutti sanno che lo Stato italiano non ha grandi risorse per intervenire, e quindi questo creerebbe grande turbolenza, e tra l'altro non si risolverebbe il problema dello slegare il rischio bancario dal rischio Stato, perché dal momento in cui una banca dovesse avere problemi ed essere sull'orlo del fallimento, questo porterebbe con sé un rischio sullo Stato, quindi si alzerebbero lo spread sui BTP, eccetera eccetera. Quello che chiede Saccomanni, ma non solo il nostro ministro, anche altri paesi, chiede che invece ci sia un meccanismo europeo e automatico. Nel momento in cui una banca fallisce o è sull'orlo del fallimento, prima pagano i privati, come già stabilito, dopodiché ci deve essere un serbatoio di risorse automaticamente attingibili dalla banca in crisi. In questo modo, ed europeo, essendo europeo, si spezzerebbe il legame appunto tra la banca di un paese e il proprio paese, perché altrimenti non si risolve il problema, che quando una banca va in crisi anche lo Stato che la ospita. E qua veniamo allo snodo, perché probabilmente la Germania ritiene che in questo modo questo possa avere, come dire, un legame diretto anche con loro, con l'andamento dei loro stessi titoli di Stato, o no? O... Allora, loro tendenzialmente non vogliono pagare per i fallimenti delle banche altrui, sostanzialmente per cui il problema è semplicemente qual è l'obiettivo. Se l'obiettivo è evitare le crisi sistemiche, cioè evitare che il fallimento o la crisi di una banca porti giù un intero Stato, allora bisogna fare in modo che il meccanismo di risoluzione di questa crisi sia europeo, sia automatico, e gli investitori sappiano cosa succede il giorno in cui la banca X andasse in fallimento. Se questo non avviene, ovvio, si creerebbero le solite turbulenze sui mercati, e quindi si ritornerebbe ai problemi che non abbiamo mai risolto. Saccomanni fiducioso, Letta fiducioso in partenza per il Consiglio europeo, vedremo che cosa ne uscirà. Come avete capito, però, l'argomento, anche se un po' ostico, è piuttosto importante. 349-238-6666 per i vostri sms, per continuare a commentare. Ci ritroviamo però dopo il giornale radio. My head is a jungle. My head is a jungle. scossa tantissimo all'interno del Partito Democratico e non solo. Riconosciuta da alcuni, disconosciuta da altri, alla fine questa web tax ha un solo padre riconosciuto vero e proprio, che è Francesco Boccia del PD. Una proposta sulla quale si sono addensate moltissime critiche, sia di ordine pratico sia di ordine legale. Adesso sta circolando la cosa, stiamo cercando verifica anche da questo lato. Sta circolando la notizia che in realtà i tecnici della Camera abbiano già detto che la formulazione attuale della web tax è in contrasto con la normativa comunitaria, come molti giuristi dicono da giorni. Qual è il problema? Il problema dal quale si parte è questo. Nel 2012 un'azienda come Amazon, per esempio, ha fatturato 26 milioni di euro nel nostro paese e ha pagato nel nostro paese tasse per 900 mila euro. Google, il cui giro d'affari in Italia, insomma, non abbiamo dettagli, però ha versato in tasse meno di 2 milioni di euro. Si parte da questo. Questo è il problema. È il problema di dove si trova la residenza fiscale di queste aziende, in sostanza, di tutti i giri che fanno per aggirare la tassazione. Come si è pensato di risolverlo? Con un metodo che molti, lo stesso ministro Zanonato, ieri ospite ad Effetto Giorno, hanno definito un po' grossolano. Cioè, puoi di fatto acquistare servizi da questi, non solo colossi della rete, ma anche aziende più piccole, solamente se hanno anche una partita IVA italiana. Nella nota è stato cambiato lievemente, è stata cambiata lievemente questa norma, nel senso che è stato escluso l'e-commerce. Resta dentro, però, per esempio, l'acquisto di pubblicità. Massimo Russo, direttore di Wired Italia, benvenuto, buonasera, ciao. Buonasera a voi, ciao. Allora, non cambia in sostanza l'impianto della norma con le modifiche di questa notte, no? No, diciamo che è stata resa un po' meno brutale e che in buona sostanza rimane una soluzione sbagliata a un problema che esiste. Il problema esiste, però il punto è, insomma, su questo anche da Wired siete stati molto duri, che non lo puoi risolvere solamente in Italia, anche se la cosa vedo che scatena molto dibattito, no? Perché la soluzione immediata, tutti dicono, beh, insomma, ragazzi, in qualche modo questi tocca farli pagare. No, ma su questo non c'è dubbio. Il problema, come al solito, è che noi dovremmo essere in grado come paese di definire un chiaro interesse nazionale, in questo caso l'interesse nazionale è che le grandi piattaforme, qualora realizzino fatturati nel nostro paese, in qualche modo versino anche al fisco quel che è dovuto, e andare poi a difenderlo nelle sedi opportune, no? Quindi a Bruxelles in questo caso o a Strasburgo, perché se abbiamo voluto uno spazio comune, unico di commercio come l'Unione Europea, poi non ci possiamo dolere o scoprire solo in determinati casi che esistono dei paesi che fanno parte di questo spazio comune come l'Irlanda o il Lussemburgo, che fanno delle condizioni molto diverse dalle nostre, che quindi rendono molto più semplice chi non farebbe allo stesso modo delle grandi piattaforme, potendo scegliere se pagare 10 o se pagare 100 e essere all'interno dello stesso spazio economico, io vado dove pago 10, no? Allora Massimo, io vorrei che tu ci aiutassi anche a capire praticamente che cosa vuol dire tutto questo, cioè aiutaci a portare un esempio. Il punto è questo: la nuova norma prevede che i soggetti che acquistano servizi di pubblicità e link sponsorizzati online anche attraverso centri media e operatori terzi sono obbligati ad acquistarli da soggetti in possesso di una partita IVA. Dal punto di vista dell'effetto pratico, questo che cosa vuol dire? Oggi vedevo su un blog qualcuno che scriveva: guarda, è talmente paradossale questa formulazione che, per esempio, io dovrei non poter visualizzare oppure potrebbe essere giudicata illegale persino la home page del New York Times, che viene fatto a New York, dove però appaiono pubblicità italiane, perché insomma, no, vieni geolocalizzato quando navighi in rete. Assolutamente sì. Sì, e tra l'altro voglio dire, da un certo punto di vista se vogliamo, parlando da giuristi, forse questa soluzione di togliere una fetta delle partite IVA, di lasciare solo la pubblicità, è anche peggiore, è anche peggiorativa di quel che c'era prima, perché sì, abbiamo fatto salvo l'e-commerce, però è come dire che stiamo facendo questa regola a proposito del paese delle leggi ad personam solamente per Google e per Facebook, no? Per, diciamo, i giganti della pubblicità. Quindi porta un nome e un cognome a questo punto questa norma, ma insomma, a prescindere da questo, ignora poi anche una serie di meccanismi, uno dei quali è quello che hai illustrato tu. L'altro, ad esempio, è che molta della pubblicità che compare oggi sui nostri siti è pubblicità estero su estero, cioè è pubblicità che non passa proprio dall'Italia, perché le grandi aziende, le aziende multinazionali che fanno sport, bibite, eccetera, eccetera, comprano direttamente da centrali del traffico che sono fuori dal nostro paese il traffico in diversi paesi, e poi questi banner, questi annunci pubblicitari vengono via via smistati sulle differenti aree geografiche. Quindi tu dici in sostanza, al di là, no, della, come dire, della questione in sé, insomma, c'è il trattare come una questione locale e che si può far rientrare nei confini italiani qualcosa che è completamente diverso, cioè un mercato che si muove in maniera completamente diversa ed è globale per definizione perché è immateriale. Assolutamente, è il pensiero di chi ritiene che alzando un muro e andando a dormire ci si possa risvegliare la mattina dopo facendo finta che tutto quel che è accaduto nel mondo, nel senso della trasformazione digitale, che tutto quel che si porta dietro non sia esistito. Ecco, purtroppo non è così. Quindi interventi vanno fatti, ma ad esempio vanno fatti facendo valere gli interessi nazionali in sede europea. Quindi sarebbe stato per esempio diverso se Italia, Francia e Germania si fossero presentate insieme con una proposta comune all'interno dell'Unione Europea e poi andare a discutere in qualche modo questa con le grandi piattaforme. Purtroppo questo è un tratto che si rivede poi in diverse cose, perché stasera parliamo della web tax, ma se prendiamo un'altra normativa uscita nei giorni scorsi, che è il provvedimento della GCOM sulla tutela del diritto d'autore, poi su tutto quel che si porta dietro in termini di sanzioni, eccetera, eccetera, anche quello è un provvedimento, una delibera che si presta a una serie di censure da parte dell'Unione Europea, e già ci sono diverse perplessità. Perché questi fenomeni non sono normabili in questo modo. Non in questo modo. Un'ultima domanda, ti chiedo di essere breve, Massimo. Fa notare giustamente un ascoltatore che ci scrive via SMS, no, alla fine di tutto, come sempre, si riverserà con aumenti di prezzi sugli utenti. Perché poi il punto qual è? Che sarà pur vero che questi non pagano tutte le tasse che dovrebbero pagare e che vorremmo che pagassero. E però è vero dall'altra parte che in questo modo riescono a tenere bassi i prezzi, e quindi un'azienda che si fa un determinato budget pubblicitario in rete o alza questo budget e poi e quindi naturalmente ci spende di più, e questo va a danno dell'azienda, o tiene lo stesso budget e fa meno pubblicità. Insomma, voglio dire, non è una grande soluzione. Ma non è una grande soluzione, non so se c'è questo il rischio più grave in realtà, secondo me, è che noi qui stasera stiamo parlando di uno dei problemi del digitale, no? Della rivoluzione digitale, e nell'inseguire questi problemi io credo che il problema, la questione più grave, sia perdere d'occhio le potenzialità, e quindi noi stiamo qui a discutere di cose corrette, ma non immaginiamo come salire su questi straordinari ascensori digitali che possono fare anche in qualche caso la fortuna delle nostre aziende. Noi siamo un paese che fonda la propria possibilità di crescita in larga parte sulle esportazioni. A me piacerebbe vedere il governo italiano e il Parlamento italiano che ragionano su come far sì che le nostre imprese possano sfruttare al meglio Amazon e quindi mettono in piedi degli strumenti perché questo possa accadere, per internazionalizzarsi, e forse utilizzare oggi il digitale, queste reti materiali per internazionalizzarsi, è molto più semplice che non ricreare l'ICE, no? L'Istituto per il Commercio Estero. Ti ringrazio, grazie a Massimo Russo, direttore di Wired Italia, per essere stato con noi con un lieve ritardo. Chiudiamo, grazie a Paolo Corleone in regia, Mauro Del Corno, Alessandro Iacopini, Barbara Bianchi in redazione, a tutti voi per l'ascolto. Radio 24, la passione si sente.